Spazio Estate Viaggi, seconda puntata, da Buenos Aires a Rosario, Argentina. Radio Onda d'Urto. Tú me tenías ciego, nadie me veía. Viviendo solo aquí en tu redondel, dándome más carga de la que ya tenía. Espacio Estate. Te va mal, por eso llamas. No estoy en ti, estoy en cuarto nomás. Me despertó la alarma. Y estamos conectados con Espacio Estate. Si tu amiga me llama y me dice vamos a hacerlo, llego y lo hacemos con ganas. Suavecito como Espacio Estate. Spazio estate. E spazio estate. Spazio estate. Spazio estate. Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. No, tú no aprovechaste el turno. Pa' tu huevo buscaste otro alumno. Ey, por ti sabes cuánto cabrón puso a botar humo. Te saca con borrata la porno. Por mi sigue. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Eccoci di ritorno con la seconda puntata di Spazio Estate Viaggi, programma di intrattenimento culturale firmato Don Pierce. Questo format estivo vi terrà compagnia per la prossima ora e mezza sulle frequenze del Gatto Nero. Abbiamo aperto questa seconda puntata di questa seconda stagione con Irma, la nuova canzone di Chanel con un featuring di Jay Wheeler, che sono due portoricani esponenti del genere musicale urbano latino. E partiamo subito con il programma della puntata. Nella prima parte continueremo a raccontarvi del viaggio di Giacomo, cicloviaggiatore inesperto che si è avventurato in Sud America. 5.000 km percorsi in bicicletta tra Buenos Aires e Lima. E questo racconto ci servirà in realtà a trasportarvi nella seconda parte del programma, l'intervista. Per questo episodio abbiamo incontrato due attiviste dell'area femminista del TAGER, ovvero del laboratorio ecologista della città di Rosario, in Argentina. In questa intervista Magali Riva e Barbara Basserini ci faranno conoscere le attività dell'organizzazione della quale fanno parte. In particolare ci presenteranno il libro che hanno scritto con le loro compagne durante le chiusure dettate dalla pandemia. Cucinando l'ecofemminismo, né la terra né le donne sono territori di conquista, nella seconda parte di Spazio Estate. E come nella prima puntata di Spazio Estate Viaggi, nell'ultima parte del programma andrà in onda la rubrica di Mirko. Questa settimana Roberto Arlt, scrittore, drammaturgo e giornalista argentino nato a Buenos Aires nel 1900. Vi ricordiamo infine che potete interagire con questo programma tramite le pagine Facebook e Instagram donpierce.it. Su queste pagine potete anche trovare un po' di foto del viaggio che vi stiamo per raccontare. E sulle note del gran duetto di arpa Allegro con spirito nella versione di Jennifer Swartz vi lasciamo, ma tra pochi istanti, alla prima parte di Spazio Estate Viaggi. Nella prima puntata di Spazio Estate Viaggi avete ascoltato la scelta e i preparativi del viaggio in bici tra Buenos Aires e Lima, durato 86 giorni. I mesi precedenti alla partenza hanno permesso di concretizzare il sogno di un lungo viaggio che durava da almeno 2 anni. Un sogno divenuto realtà con l'ausilio di numerose nonché scrupolose ricerche. Come vi raccontavo la scorsa volta, la prima cosa da fare per intraprendere un viaggio in bici è scegliere un paese per la partenza. Bisognerà poi valutare la stagione migliore in base al paese scelto. Ovviamente è necessario anche fare i conti con il tempo a disposizione per viaggiare. È fondamentale preoccuparsi dei vari documenti di viaggio, il passaporto, i visti e le eventuali assicurazioni mediche. In seguito è necessario stilare la lista del materiale che servirà durante il viaggio e procurarselo. Nel mio caso ho dovuto comprare solamente le borse per la bici. Tante altre cose, a partire dall'abbigliamento, le ho semplicemente recuperate nel mio armadio, senza avere la pretesa di viaggiare interamente con materiale tecnico specifico. Sono un cicloturista senza esperienza. Voglio capire cosa mi serve per intraprendere una lunga avventura in bici, ma non conosco ciclisti viaggiatori. Quindi affido la maggior parte delle mie ricerche a internet. Anche se solo una piccola parte di chi viaggia produce materiale fruibile online, o scrive libri, o parla alle radio, ci sono in realtà moltissime cose che si possono apprendere dalla rete. Specialmente esistono molti blog e siti internet specializzati, un po' di libri, molte mappe e diversi itinerari. Per questo motivo, se decidete di intraprendere un viaggio del genere, dovete lasciarvi ispirare da chi ha già fatto questo tipo di esperienza. Personalmente, anche perché hanno più visibilità, sono capitato su storie estreme di cicloviaggiatori. Gente che è rimasta mesi a decine di gradi sotto zero, o che ha attraversato tutta l'Africa, o che ha vagato anni, su 2 ruote, in giro per il mondo. Una serie di video di un giovane fotografo piemontese mi aveva particolarmente colpito. Vengono narrate e filmate le sue avventure di viaggio tra il Piemonte e Capo Nord a bordo di una graziella. Questo viaggio è stato intrapreso con un mezzo che possiamo definire quasi di fortuna, un mezzo sopra il quale non si possono caricare molti bagagli, che non permette di raggiungere velocità elevate, che è fragile e anche per questo non certo adatto a lunghi viaggi. Anche Omar, il simpatico personaggio che intraprende questa folle avventura, non è certo uno sportivo professionista. Per arrivare alla meta ci mette diversi mesi. Viaggia lentamente, al ritmo di circa 50 km al giorno, ma riesce nell'impresa. Questa sua serie, che seguo assiduamente durante il primo confinamento, mi appassiona molto. Soprattutto perché mi convince del fatto che viaggiare in bici non è un'impresa da superuomini o da superdonne, che non è necessario essere degli sportivi esperti, che non servono moltissimi soldi, né attrezzature tecniche d'avanguardia. I video di Omar mi aiutano a capire come organizzare la logistica, innanzitutto dove dormire e come mangiare spendendo pochissimo. In questo lui è davvero un maestro. Dorme sempre in tenda. Qualche volta ha la fortuna di essere ospitato. Carica il telefono e il computer nelle aree di servizio lungo le strade che percorre. Si procura cibo solo nei discount. Cucina sempre con un modesto fornellino e mangia di tutto. Mi identifico in lui, capisco che ce la posso fare. Come me, lui è uno qualunque, un trentenne con tanta voglia di viaggiare, pronto all'imprevisto, desideroso di avventure e pieno di aspettative. Omar mi ispira veramente tanto, amplifica il mio sogno di viaggiare in bici. Mi perdo quindi tra questo tipo di video. In più, mi perdo per giorni guardando la mappa e dopo molte considerazioni decido di partire per Buenos Aires. Nella scorsa puntata vi ho spiegato come è avvenuta la scelta della meta, quale materiale ho portato con me, di come mi sono preoccupato per la mia salute prima del viaggio, dei vari preparativi prepartenza e finalmente dell'arrivo nella capitale argentina, nonché dei primi incontri. Ho accennato brevemente alla preparazione del mio mezzo di trasporto, ma non ne ho parlato molto. La mia bici l'avevo comprata nel 2020, quando il governo stanzia il bonus bici. Mi pareva un'ottima scusa per comprarmi un nuovo mezzo. Prima della mia attuale bici, che ho portato in Sud America, avevo una gravel. Mi piaceva molto, ma aveva il grande difetto di non avere la predisposizione per agganciare portapacchi e borse. Il telaio in più era di un alluminio molto leggero, quindi più fragile, dunque inadatto a viaggi lunghi con bagagli a seguito. Rivendo la gravel e investo subito il ricavato, insieme al bonus bici, nell'acquisto di un nuovo mezzo. Compro una bicicletta per viaggiare. Deve essere solida, infatti scelgo il telaio in acciaio. È il materiale più pesante, ma anche il più resistente. Faccio installare portapacchi posteriore e anteriore, così posso attaccarci 4 borse, più quella sul manubrio. Scelgo un modello con freni classici, a pattino, niente freni a disco e ad olio, dei quali in zone remote potrei non trovare il liquido per ricaricarli. Non ho ammortizzatori. Scelgo delle ruote con pneumatici da strada, ovvero non troppo larghi. In questo modo potrei effettivamente avere delle difficoltà con qualche sterrato, specialmente se coperto di sabbia, ma per l'asfalto sono perfette. Faccio montare ben 5 portaborraccia, 3 sul telaio e 2 sul manubrio. L'acqua, infatti, è una delle mie principali preoccupazioni. Ho terribilmente paura di trovarmi in luoghi sperduti senza acqua. In realtà, poi, non mi mancherà mai. Ricordo che prima di partire mi interessai a vari sistemi di purificazione. Esistono molti tipi di filtri, ma nessuno mi convince. Ho girato molti posti alla ricerca di pastiglie per purificare l'acqua, ma non ho trovato nulla, se non pastiglioni per purificare grosse quantità. Alla fine parto senza nessun strumento speciale, ma con l'acqua non avrò nessun problema. Trovo sempre qualche rubinetto per riempire le mie borracce. Prima di bere, domando semplicemente se l'acqua è potabile. Durante i 3 mesi di viaggio, mi capiterà una volta di avere la diarrea per qualche giorno. Non posso però affermare che sia stata colpa dell'acqua. In quel caso, consulto un medico. La diagnosi è la famosa diarrea del viaggiatore. Di solito dura un paio di giorni poi passa. Nel mio caso, passerà con un antibiotico. Ma non è questo piccolo problema che rallenterà il mio viaggio. Parto quindi con una buona bici, ma semplice. Durante il mio viaggio incontro vari cicloviaggiatori e alcune cicloviaggiatrici. Le loro bici non sono sempre le più performanti. Ho visto viaggiare della gente con mezzi veramente semplici e senza alcun tipo di materiale tecnico. Penso di conseguenza che un viaggio del genere si può affrontare davvero con qualsiasi mezzo. Non ci sono necessità particolari che impongano un investimento di migliaia di euro. Sono però sicuro che una bici più è di qualità e meno causerà problemi durante il viaggio. Una bici molto economica, infatti, tenderà a rompersi più facilmente. Alcune rotture sono normali, ad esempio bucare, però si forma meno spesso quando si hanno pneumatici di qualità, quindi investire in una buona gomma è certamente consigliato. Anche le ruote, se sono valide, non causeranno problemi. Una bici molto carica, su delle ruote economiche, invece, potrebbe, ad esempio, guastare i raggi. In questo caso, le riparazioni diventerebbero un po' più complesse. Ho letto anche che alcuni cicloviaggiatori hanno spaccato il telaio. Non è facile, ma un telaio scadente su strade tortuose potrebbe creparsi, causando inevitabilmente la fine del viaggio. Mi convinco quindi che non esiste una bici perfetta. Certamente però più si investe nel mezzo e meno questo causerà difficoltà durante la strada o domanderà attenzioni e manutenzione. Rimane ovviamente una scelta molto importante. Ho deciso il paese dal quale partire, l'Argentina, la città Buenos Aires. Tuttavia, al momento del mio arrivo, non avevo idea di quale itinerario avrei seguito. Le mie ricerche su internet avevano scovato diverse piste. In Argentina, come in altri paesi dell'America ispanica, esistono numerosi amanti di bicicletta, Di conseguenza si trovano online varie proposte di viaggio, itinerari battuti e tracce GPS da scaricare. Io non ho nessun navigatore specifico per la mia bici. Sono certo utili, ma quelli buoni sono anche decisamente costosi. Parto quindi facendo affidamento solamente sul navigatore del telefono. Chiaramente non lo posso tenere acceso sempre, perché la batteria non durerebbe a lungo. Lo uso quindi solo per capire le distanze e per verificare la presenza di paesi lungo la strada. Mi è molto utile quando devo uscire dalle città, soprattutto quelle più grandi. Poi, una volta imboccata una strada principale, fuori città, non mi serve più. Verifico la strada solo in caso di bivi o in altri punti dubbi. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena. Sono arrivato a Buenos Aires il 24 gennaio e ho deciso di fermarmi un paio di settimane prima di iniziare il mio viaggio. I giorni nella capitale passano velocissimi. Non è facile lasciare Buenos Aires. La città è enorme, carica di attività, di storia, di luoghi da scoprire, da visitare. Anche le amicizie nascono facilmente. Apprezzo particolarmente la facilità di stringere rapporti solidi e di sentirsi subito parte di un gruppo. Dopo pochi giorni dal mio arrivo in città, ho già una compagnia con la quale uscire. Il senso dell'amicizia è forte e ricevo continui messaggi che mi chiedono come sto, quando parto, cosa faccio in serata. Spesso vengo invitato a delle grigliate. La carne, si sa, in Argentina è molto buona. Lo sapevo, lo verifico e confermo senza dubbi. Quello che non sapevo, però, è quanto sia elevata la conoscenza culinaria nei confronti della carne. Con il mio gruppo di amici si va a fare spesa insieme prima della grigliata. Constato che ci mettono poca attenzione nella scelta delle verdure, delle salse, del pane. Anche per quanto concerne il vino, di cui pur il paese è eccellente produttore, la scelta avviene velocemente valutando esclusivamente il prezzo. Quando si entra dal macellaio, però, il tempo si ferma. Il bottegaio viene innanzitutto tempestato di domande. Cos'hai in frigo, i prezzi e con relativi commenti, la freschezza, la provenienza, eccetera, eccetera. Dopodiché gli amici, senza aver comprato ancora nulla, si riuniscono fuori dal negozio ed iniziano una vera e propria riunione. Bisogna verificare le disponibilità economiche, quindi decidere le quantità, i tagli. Si discorre a lungo su cosa si è mangiato durante le precedenti occasioni, di cosa andava bene, di cosa cambiare. Si svolgono diversi calcoli su cosa sia meglio comprare. Meglio più quantità e meno qualità o viceversa. Dopo un lungo lasso di tempo, il gruppo sintetizza il verdetto. Si può quindi rientrare in macelleria e procedere con l'acquisto. Solo una persona si occuperà in seguito di cuocere la carne. È il più sperimentato e colui al quale il gruppo esprime unanime fiducia. Il risultato sarà eccellente. Dopo la cena andiamo a casa di un'amica che ha improvvisato nel suo salone una jam. Si suona, si canta e questo è quello che ho registrato. Passa uma tarde na outra, outro é nome da rua. non è facile lasciare tutto questo e partire. Mi pare già di aver trovato in Buenos Aires la mia isola felice. Chi mi obbliga a lasciarla? Nessuno, ma la voglia di avventurarsi è tanta. So che starò da solo per molto tempo, lontano dalla mia zona di comfort, e già mi mancano le mie amicizie in Europa. La voglia di pedalare però è tanta, prevale, così un giorno decido di partire. Come accennavo precedentemente, non avevo un itinerario prestabilito. Ho deciso semplicemente di andare verso nord. La voglia di vedere cactus alti 5 metri prevale su quella di voler vedere i pinguini. Come primo punto di arrivo eleggo la città di Salta, dista all'incirca 1500 km da Buenos Aires. Unisco il punto A con il punto B sulla mappa e l'itinerario viene da sé. Scelgo Salta perché è ai piedi di maestose montagne. È un luogo turistico, alcuni amici ci sono stati e mi raccomandano la zona. Se riuscirò ad arrivare a Salta, mi dico, potrò già essere molto contento di me stesso. E se avrò le forze, continuerò a puntare a nord, pedalando verso la vicina Bolivia. Il giorno che ho scelto per la partenza è paradossalmente un po' triste. Mi pare di aver visto troppo poco della capitale argentina. Ho appena conosciuto un bel gruppo di persone, mi dispiace lasciarle. Chissà se un giorno le rivedrò. Sento però anche una certa eccitazione. Il viaggio che ho sognato a lungo sta veramente per cominciare. Decido di uscire dalla città in treno per evitare di trascorrere una giornata intera nel traffico della capitale, tra semafori e gas di scarico. La città è molto estesa e davvero ci avrei messo una giornata di pedalate prima di vedere un po' di campagna. Arrivo col treno nella piccola cittadina di Zárate in tarda mattinata e il mio viaggio inizia. È l'8 febbraio del 2022. Sto lasciando Buenos Aires e tra un paio d'ore inizierò a pedalare. Sono felice, sono carico. Per i prossimi 270 km ci saranno solo paesini. La prossima città abbastanza grande nella quale ho deciso di fermarmi è Rosario. Come dicevo, non ho scelto nessun itinerario particolare. Ho solo unito il punto A e il punto B e la linea che unisce i due punti, passa per Rosario. Alla stazione di Zárate domando qual è la strada più corta per Rosario e mi rispondono l'autostrada. Effettivamente non sono poi così tante le strade che collegano le due metropoli. Verifico sulla mappa. Se non prendo l'autostrada, il percorso diventa molto più lungo. Decido quindi di intraprendere il cammino più breve, anche perché è il più vicino a Rio Paraná. Mi immagino a dormire lungo le sponde del fiume e inizio quindi la strada. Per i primi chilometri al lato dell'autostrada c'è una strada collettora. È una carreggiata separata. L'asfalto è in ottimo stato, non la percorre praticamente nessuno, mi sembra perfetta. Il problema è che dopo qualche decina di chilometri si interrompe. Non posso più scegliere, devo immettermi nella corsia di emergenza e viaggiare a fianco di lunghe file di camion. Finora il mio primo viaggio in bici me lo immaginavo un po' più esotico. Mi ritrovo invece a pedalare al lato di un'autostrada. Già dai primi chilometri il paesaggio intorno è prettamente agricolo e con pochissime costruzioni. È molto piacevole da osservare, ma mi stanco in fretta di viaggiare a fianco ai camion, quindi imbocco un'uscita e mi ritrovo in mezzo ai campi. Sempre con l'aiuto saltuario della mappa del telefono, trovo alcune piccole strade usate dagli abitanti locali e dai lavoratori dei campi. Dopo aver pedalato per circa 70 km, mi ritrovo nel piccolo paesello di Alsina. Manca poco al tramonto e non ho ancora la minima idea di dove dormirò. chiedo a una signora che vedo in un giardino se posso accamparmi da qualche parte. Mi dice di avere una stanza per i turisti. Accetto la sua proposta, che però non è priva di interesse, infatti capisco che la stanza la dovrò pagare. Non è grave, mi dico, è il primo giorno, sta arrivando la sera e sono stanco. Il giorno seguente punto dritto ad un campeggio lungo il fiume Paranà. Lo scelgo la mattina prima della partenza, guardando sulla mappa. Fa molto caldo e decido di pedalare solo 60 km. Finalmente ho trovato una strada secondaria ed evito di prendere l'autostrada. Arrivo ad un campeggio gestito da un'associazione. Non c'è nessuno, se non i tre anziani, i gestori, che se ne vanno poco dopo. È la seconda notte. Sono finalmente nella mia tenda e non devo pagare nulla, dato che, a parte i bagni, non c'è nessun servizio. Il posto è bello, tranquillo. San Pedro è una piccola località turistica lungo il fiume. Dormirò tutte le notti in tenda fino a quando arriverò a Rosario. Seguendo la strada che costeggia il Rio Paranà, trovo facilmente posti dove accamparmi. Sono sempre campeggi. Non sono tutti organizzati, ovvero a pagamento, con la sorveglianza, internet o il ristorante. Alcuni infatti sono chiamati campeggi, ma sono semplicemente luoghi dove la gente si ferma a fare grigliate. Alcuni di questi posti sono molto belli. Anche le strade sono piacevoli. Pedalo in mezzo a tenute agricole immense. A volte mi perdo nelle stradine bianche che usano i lavoratori dei campi. Ogni giorno, quando mi sveglio, allestisco un'abbondante colazione. Solitamente latte, yogurt o succhi di frutta, pane con dulce de leche, una crema di latte e zucchero al sapore di vaniglia che da queste parti si consuma in abbondanza. Mangio anche molta frutta, specialmente pesche e uva che in questo momento sono di stagione. Poi, durante la giornata, pedalando, evito di abbuffarmi, mi verrebbe sonno. Aspetto la sera per consumare il mio pasto principale. Cucino poche volte, perché quando arrivo a destinazione e parcheggio la bici non ho più voglia di fare nulla. Inoltre, accontentandosi di modesti ristoranti, si può cenare con 5-6 euro. Normalmente una cotoletta con patate e due foglie di insalata. Purtroppo mangiare verdura non è facilissimo. Quando la domando ricevo un'insalatina con pomodori e cipolla. A volte mi capita di aver così fame da ordinare una pizza dopo aver mangiato cotolette e patatine. Per arrivare a Rosario impiego 5 giorni. Il viaggio è all'inizio, non sono allenato e quindi mi limito a percorrere mediamente poco più di 50 km al giorno. Quando arriverò in città non potrò certo campeggiare, ma sono contento perché ho già trovato ospitalità. Tramite un amico di un amico arrivo a casa di Andrés, che mi ospita per una settimana e soprattutto mi dà alcune dritte per le prossime interviste. Scatta subito un'altra amicizia, sincera, profonda. Andrés è desideroso di farmi conoscere la propria città, i suoi amici e molti luoghi che sono naturalmente ignorati dal turista medio. È così che una domenica mi ritrovo a navigare il Rio Paranà in kayak. Questo mi pare lo sport tipico di Rosario. Ce ne sono migliaia parcheggiati lungo il fiume. Ci ritroviamo quindi col kayak e un gruppo di amici del mio amico. Risaliamo il fiume per una ventina di chilometri, prima di fermarci in un boschetto per l'immancabile grigliata. Anche in questo caso l'organizzazione è perfetta. Sul kayak vengono caricate le griglie, le vivande e tutto il necessario per un'ottima abbuffata domenicale. Fa molto caldo, non ho le braccia allenate per il kayak e i 274 km di pedalate dei giorni scorsi, a confronto, mi sembrano una passeggiata. Dopo qualche giorno riesco a mettermi in contatto con l'area femminista del laboratorio ecologista della città di Rosario. È da questo incontro che procedo con la registrazione della seconda intervista, in onda dopo un po' di musica. Vamos a lo de adelante, dame un paso y vámonos. Spazio, estate, viaggi. Radio, radio onda d'urto. Dale, arranco yo. Bueno, yo soy Magali Rivas, tengo 34 años. Buongiorno, io sono Magali Riva, ho 34 anni, sono quasi sociologa. Sto completando la tesi di laurea sull'ecofemminismo e faccio parte dell'area femminista del laboratorio ecologista da quando ho iniziato nel 2016. E questo è tutto. E eso. Algo más te devi contare? No. Sì. Perfetto. Barbara Vasserini, tengo 31 años y soy abogada. Buongiorno, io sono Barbara Vasserini, ho 31 anni e sono avvocato e faccio parte dell'area femminista dalla fine del 2019, da poco, insomma. E sì, entrambe facciamo parte dell'area femminista del laboratorio. Insieme ad altre 9 compagne. 8 compagne. Sì, 9 compagneras más. Sì. Volevo chiedervi innanzitutto quando è nato il laboratorio ecologista e quando l'area ecofemminista. Inoltre anche quali sono stati i momenti storicamente più importanti per l'organizzazione. Bueno, sí, Taller Ecologista es una organización socioambiental de acá de la ciudad de Rosario. Il laboratorio ecologista è un ONG, un'organizzazione socioambientale della città di Rosario. È nata 36 anni fa, nel 1985, coincidendo con le tappe di restaurazione democratica in Argentina. Lavora in differenti ambiti. Oltre all'area alla quale apparteniamo io e Magali, che è quella ecofemminista, ci sono altre aree. L'area di sovranità alimentare, di sovranità energetica, ecoeducazione, sostanze tossiche, zone umide e spazzatura zero, che si occupa del problema dei residui. Humedales y basura cero, que trata la problemática de residuos. ¿Y querés contar del área? Dale. L'area ecofemminismo nasce nel... L'area ecofemminista nasce nel 2016. Le altre aree esistono da molto prima che si formasse la nostra. E ognuna tratta una problematica socioambientale specifica, svolge lavori sul territorio, però anche molti lavori di generazione di informazione, di investigazione più tecnica, però sempre con una prospettiva sociale delle problematiche. E nel caso dell'area ecofemminista, nasce nel 2016 per rispondere alla necessità che c'era da parte delle donne che hanno iniziato con questo lavoro di iniziare a rendere trasversale la prospettiva di genere o femminista in tutte le problematiche a cui il laboratorio ecologista lavorava già. E i punti cruciali, storici del contesto argentino, hanno a che fare da un lato con il Ni Una Menos e dall'altra parte con gli incontri nazionali delle donne, che sono stati due fatti storici che hanno un'influenza fondamentale per la nascita dell'area del 2016. Gli incontri nazionali delle donne si realizzano da 35-36 anni, più o meno, e ogni anno si realizzano in una città differente del paese. Nel 2016, quando nasce l'area, era l'anno in cui si svolgevano per la seconda o terza volta nella città di Rosario. Questo incontro dove arrivano donne da tutto il paese, riunendosi per dibattere dei differenti temi che ci interessano in quanto donne e femminilità. Perché, oltre alle donne, partecipano anche altre identità femministe. Questi sono stati due fatti più importanti. Inoltre, l'area ecofemminista aveva due contatti, grazie a tutta la storia del laboratorio ecologista, con altri spazi di donne e organizzazioni di differenti parti dell'America Latina. Anche questo ha avuto una certa influenza. Come l'associazione Sempre Viva, organizzazione femminista del Brasile, ossia un'associazione che ha avuto un forte intercambio con il laboratorio ecologista e che ha avuto anche influenza nella formazione dell'area ecofemminista. E tu influenza anche in che si conformerà l'area. Algunas compañeras que estaban quizá en otras áreas de trabajo, sobre todo en soberanía. Alcune compagne che appartenevano ad altre aree di lavoro, soprattutto in quella di sovranità alimentare, si sono rese conto dell'importanza di avere un'area di lavoro che iniziasse ad approfondire queste questioni con tutto il contesto di cui parlava Magali. E lì si crearono i presupposti perché sorgesse l'area. L'area. Tal qual. Questo è come un po' il contesto. Esattamente, questo è un po' il contesto. Poi chiaramente il movimento femminista in generale conta su un percorso già molto esteso in Argentina, in cui è importante il ruolo dei settori popolari, dei quartieri popolari, come le Madri di Plaza de Mayo, tutti spazi di donne, come anche la generazione di investigazione accademica sul problema del genere in università, molto importanti nel paese. Sono tutti nuclei che hanno fatto sì che gli incontri nazionali delle donne siano stati tanto importanti per tutte le donne e le femminilità che partecipano a questo spazio. Come si organizza il lavoro quotidiano dell'area ecofemminista del laboratorio ecologista di Rosario e come si stabilisce l'agenda del vostro lavoro? In generale, Taller Ecologista tiene, ovviamente va siendo come un... In generale, il laboratorio ecologista ha un registro delle congiunture, dei temi che in questo momento sono al centro del dibattito e sono temi che il laboratorio segue da molti anni. Cioè sono problematiche fondamentali in Argentina, come l'estrattivismo, il tema dei rifiuti in una città grande come Rosario, il tema delle sostanze tossiche, il problema delle paludi del rio Paraná, qua davanti alle isole. Ha a che fare con questo. L'agenda si va organizzando in base alla congiuntura storica e ai temi di maggior urgenza per quel che riguarda la città, a livello locale, però anche a livello nazionale. A livello di città locale, però anche a livello del paese, di quello che va passando. Y bueno, Taller Ecologista también trabaja en vinculación y en red con otras. E inoltre, il laboratorio ecologista lavora in collegamento e formando una rete con altre organizzazioni socioambientali, cercando di attuare una rete, e questa è un'altra cosa importante, e cerchiamo di rimanere aggiornati con le altre organizzazioni, facendo riunioni e incontri periodici. Delle altre organizzazioni, mediante riunioni e incontri periodici. Noi, dentro l'area, cerchiamo di far sì che sia fondamentale il lavoro orizzontale, non gerarchico, di stare sempre attente alle esigenze delle compagne, di far sì che tutte possiamo partecipare e esprimere le nostre idee. È un lavoro estremamente collettivo quello che facciamo e credo che tutto ciò si rifletta nel libro che abbiamo pubblicato recentemente, che è un'opera collettiva come tutto il nostro lavoro. Es una obra colectiva también, exacto. Como todo nuestro trabajo. Uh-huh. Sí, como que tratamos todo el tiempo de que haya un trabajo horizontal, o sea, cada, sí. Cada área... Sí, cerchiamo que el lavoro sia sempre orizzontale, cioè ogni area del laboratorio ha il suo metodo specifico di lavoro. Noi promuoviamo questa maniera di organizzare l'attività come un'organizzazione collettiva, non solo nel senso che ognuno abbia il suo ruolo, ma anche per quel che riguarda la costruzione della conoscenza, che deve essere qualcosa di orizzontale e collettivo, in cui tutti possiamo apportare qualcosa e non ci siano voci più importanti di altre o una capacità più grande di esprimere un'opinione. Mi potreste dire qualcosa di più a proposito delle connessioni che la vostra organizzazione ha stabilito a livello locale, nazionale e anche internazionale? Y en algunos casos, o sea, de otras áreas de Taller Ecologista, lo que se hace es generar proyectos. Nel caso di altre aree del laboratorio ecologista, si creano progetti collettivi. Per esempio, c'è Paludi Senza Frontiera, che è un progetto al quale partecipano organizzazioni di differenti parti del paese. La maniera di attuare e sviluppare un progetto, determinare gli obiettivi, fare un monitoraggio nel corso del tempo. E si fanno varie attività in questo senso, attività di investigazione, di sensibilizzazione, di divulgazioni. E poi c'è il tema del contatto, di comunicare costantemente con gli altri spazi, che è ciò che ci arricchisce. Per questo il laboratorio ha deciso di lavorare sempre in rete, sia con altre organizzazioni di qui, di Rosario, come di altre province e del resto del paese e di altri paesi dell'America Latina. Questo è più o meno il modo di mantenere i contatti, la comunicazione e decidere come procedere verso gli obiettivi che si fissano per ogni progetto. Importante è anche l'ambizione di avere un qualche impatto sull'agenda politica. Il laboratorio, essendo un'organizzazione nata da tanti anni, con una grande esperienza e tante persone molto preparate, è ascoltata nella preparazione dei progetti legislativi e cerca di intervenire anche in questo senso. E questo è molto importante. Sì. Sì. Bajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. All'inizio della pandemia, quando anche qui in Argentina la gente era chiusa in casa, la vostra organizzazione ha continuato a lavorare su un progetto, un libro scritto collettivamente che si intitola Cucinando l'ecofemminismo. Quali sono gli ingredienti che avete selezionato per promuovere una transizione socio-ecologica? Socio-ecologica. Esatto. Ingredientes. Los ingredientes. Era la explicación de por qué el título. Gli ingredienti. Lì c'è la spiegazione del perché del titolo. C'è stato tutto un dibattito per scegliere il titolo, perché volevamo che si intendesse una cosa e non un'altra, volevamo rendere chiare alcune questioni. La prima è che noi quando abbiamo scritto il libro non volevamo che si pensasse che la nostra proposta fosse l'unica o che avessimo la verità assoluta su ciò di cui parlavamo nel libro. Si tratta piuttosto di una proposta come un'altra, che ha a che fare con il nostro lavoro collettivo e con la storia biografica delle persone che l'hanno scritto, con il percorso dell'organizzazione di cui facciamo parte. L'idea è raccontare tutto ciò. E distanziandoci da certi discorsi che pretendono di offrire una soluzione magica alle problematiche socioambientali e alla crisi di civiltà che stiamo attraversando. E anche per questo la parola ingrediente, alcuni ingredienti che noi possiamo offrire, però non si tratta di una proposta chiusa. Ciò che scriviamo lì non è definitivo, non è che non si possa elaborare di più a partire da quello. Anche se l'idea di scrivere il libro veniva già dall'anno passato, noi avremmo potuto dirci, bene, pandemia, non ci sediamo a scriverlo in questo momento critico in cui a livello sociale e personale di ognuna non stavamo passandocela bene, diciamo, ed è stato difficile. Però bene, anche così abbiamo iniziato con la sfida del 2020, di scrivere. È stato difficile iniziare a scrivere. Per tutto questo che ho detto, la pandemia era iniziata in marzo qui e noi allora ci siamo messi a scrivere in giugno, ci siamo dette... Dobbiamo metterci sotto, iniziare a scrivere. Come facciamo? Hay que ponerse las pilas, nos tenemos que sentar a escribir. ¿Cómo hacemos? Bueno, el libro es eso, es un poco contar la historia dell'area. Nel libro si racconta la storia dell'area, sviluppando ciò che abbiamo raccontato in questa intervista. E poi basandoci un po' sui temi dell'area del laboratorio. Commentiamo come analizzare o cercare di pensare. Fare questo esercizio di metterci come degli occhiali verdi e viola, la lente ecofemminista, per vedere le differenti problematiche socio-ambientali. Ver las diferentes problemáticas socioambientales. Eso, como sí, como decía Barbie, tratamos de hacer ese ejercicio y además. Cerchiamo di fare questo esercizio e inoltre di fare una connessione con la realtà. Cioè, che non sia solo uno sviluppo teorico-concettuale, ma che avesse anche un legame con la realtà, ossia che attraverso questa proposta ecofemminista, che consiste in una determinata maniera di vedere il mondo, possiamo incontrare esperienze nella realtà che dimostrino che un altro mondo, che noi stesse teorizziamo, è possibile. Quindi ciò che cerchiamo di fare è dare esempi. Se nel libro c'è un capitolo che parla di sovranità alimentare con una visione ecofemminista, l'idea è di fornire esempi di organizzazioni che stanno lavorando in questo senso, che stanno generando esperienze a partire dalla prospettiva di genere. Tutta la proposta, tutto ciò che trattiamo nel libro, speriamo che qualcuno lo legga, interpreti un po' tutto questo che stiamo raccontando. È un po' complicato, però abbiamo fatto il possibile. Interprete un poco todo esto que te contamos. Es un poco complejo, pero bueno, hicimos lo posible. Bueno, y es, digamos, nuestra mirada ecofeminista. Ed è, diciamo, la nostra visione ecofemminista. Spiegare che non esiste un solo femminismo, che ci sono diversi ecofemminismi. Noi abbiamo una prospettiva, l'ecofemminismo costruttivista, che sostiene che dobbiamo riconoscerci tra esseri umani come esseri ecodipendenti e interdipendenti, che abbiamo necessità dei processi che la natura ci offre per sopravvivere. Però abbiamo necessità anche delle cure che altre persone ci offrono nel corso di tutta la nostra vita, in certi periodi con maggiore intensità che in altri, ma nel corso di tutta la vita. E in questo senso è importante riflettere il valore che questi sforzi significano per noi e che ricadono fondamentalmente sulle donne e altre identità femminilizzate. Come la divisione del lavoro, che il femminismo, l'economia femminista, risalta già da diverso tempo. Inoltre, Bisogna rivalorizzare il lavoro di molte donne che stanno in prima linea nella lotta contro l'estrattivismo e per la cura del territorio, che è un bene comune dell'America Latina. L'ecofemminismo è una corrente di pensiero, ma anche una praxis, una pratica quotidiana. Il libro cerca di spiegare anche questo. Però anche come una praxis quotidiana, come decía Mai, il libro intenta dare un po' cuenta di questo anche. Parliamo un po' dei singoli capitoli del libro. Potreste presentarli brevemente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Como decía antes Barbie, hicimos un capítulo, el primero habla sobre los orígenes del ecofeminismo. Il primo capitolo parla dell'origine dell'ecofemminismo nell'area del laboratorio ecologista e allo stesso tempo cerca di contestualizzare la situazione attuale in Argentina. Poi c'è un secondo capitolo che è più teorico, concettuale, che spiega un po' questo, in che tipo di ecofemminismo ci riconosciamo, quali sono i nostri modelli teorici e concettuali, cercando di dare una visione locale, perché l'ecofemminismo ha origini europee e nordamericane. Però poi c'è stata tutta una riappropriazione a partire dalla pratica degli ecofemminismi latinoamericani, basata sulle problematiche presenti nel nostro territorio. Quindi tracciamo il percorso storico della nostra postura. Poi negli altri capitoli prendiamo ognuna delle problematiche di cui si occupa il laboratorio ecologista, rifiuti zero, sovranità alimentare, sovranità energetica, e cerchiamo di dare una visione di queste tematiche dal punto di vista dell'ecofemminismo. Vuole essere come una sorta di dialogo per capire quali sono le proposte che mettono al centro il tema della cura, che danno voce alla lotta delle donne contro l'estrattivismo e contro i differenti problemi di degrado ambientale. Poi ciò che ci interessava era poter raccontare la particolarità del nostro territorio. Qual è il territorio di cui parliamo noi dell'area del laboratorio ecologista? Si tratta di un territorio eminentemente urbano, anche se si tende a pensare alla problematica ambientale come a qualcosa che succede in altri territori, lontani, per esempio dove ci sono imprese di estrazione mineraria. Però nella città ci sono problematiche specifiche che hanno a che fare, per esempio, con persone che vivono in periferia e non hanno accesso all'acqua potabile, o che vivono in ambienti con l'aria contaminata da determinati impianti industriali, causando malattie a bambini e bambine. E siccome sono le donne le prime che si rendono conto di ciò, perché si prendono cura tutto il tempo di altre persone. Come sono le donne le prime che captano eso, però perché sono le che stanno tutto il tempo cuidando a altre persone. Entonces, bueno, dar... Esatto. De lo che si chiama ora l'estrattivismo urbano. L'avanzare dello sviluppo immobiliare anche, ciò che si chiama estrattivismo urbano. Pensare che l'estrattivismo avanza anche in territori più urbanizzati, il che è un pensiero strutturato da donne che vivono nella città. Il tutto valorizzando la conoscenza delle donne che vivono questi spazi. Per esempio, quando parliamo di sovranità alimentare, stiamo parlando sia del problema della sicurezza alimentare, sia dello sviluppo del mercato agricolo, di come gli alimenti sono concentrati in poche industrie e anche dei problemi che abbiamo nei campi con l'applicazione dei prodotti tossici. Però parliamo anche delle donne, che si sono messe in prima linea, soprattutto adesso, con la pandemia, in un sacco di mense comunitarie e che affrontano e gestiscono problemi con l'acqua nella città di Buenos Aires, a Rosario. Come pensare nei diversi territori e non solo nel territorio che abitualmente si associano ai problemi ambientali. Normalmente, come diceva Mai, si associano ai problemi ambientali. Sì. E credo, bueno, nel capitolo... Poi, nel capitolo sulle paludi, proponiamo una relazione su ciò che sta succedendo qui a Rosario con gli incendi nelle zone umide, qui nelle isole, sul Rio Paranà. In questo capitolo commentiamo un po' la resistenza all'organizzazione collettiva di donne, sia di Rosario che di Entre Rios, che è la provincia confinante e che è a sua volta toccata dal fiume, e cerchiamo di valorizzare le conoscenze generate da queste donne riguardo la vita nelle zone umide e del tema degli incendi, dello sviluppo dell'urbanismo sopra le zone umide e di come impatta sulla vita di queste donne che si sono organizzate in questo tipo di territorio. Parliamo anche della legge, perché sarebbe importante una legge che dia voce alle donne, che si faccia un registro del territorio coperto da paludi nel paese, perché spesso quello che diciamo è che non si può prendersi cura di ciò che non si conosce. Quindi, com'è importante conoscere come erano le zone umide nel nostro paese per poter prendersene cura. Sofi, la compagna che ha scritto questo capitolo, era stata molto attiva l'anno precedente con questo tema, parlando in differenti spazi che ci invitavano a conferenze sul tema, come laboratorio ecologista, ha proposto una legge sulle zone umide molto integrale, con una visione molto complessa della problematica e di come le donne abbiano un ruolo e una voce e un'organizzazione davanti a questo problema specifico. Poi c'è il capitolo sull'energia, uno sull'ecoeducazione. Poi abbiamo il capitolo di energia, hay un capitolo sobre ecoeducación. L'ecoeducazione è molto interessante también porque analizamos. Sì, quello sull'ecoeducazione è molto interessante perché analizziamo come dovrebbe esserci una trasformazione nel modo di educare, mettendo al centro la cura per la vita, sia dal punto di vista dell'ecologismo, della vita naturale della specie, perché come diceva Magalì è importante conoscere ciò che si cura, perciò bisogna conoscere il territorio. È sempre in coordinazione con l'area del laboratorio ecologista che fa un grande lavoro su questo. E poi anche la parte su tutta l'epistemologia che il femminismo può condividere e come dovremmo pensare davanti alla crisi di civiltà che stiamo attraversando in un'educazione che insegni a prendersi cura. È molto importante questo capitolo perché andava da questa parte, sul tema di insegnare a prendersi cura. E come insegniamo a prendersi cura? Da dove ci prendiamo cura? Chi storicamente si è sempre preso cura degli altri e chi ha storicamente sempre insegnato a prendersi cura degli altri? Pensiamo al processo di femminilizzazione dell'insegnamento. Le maestre, che almeno qui in Argentina sono sempre state donne. Come si relaziona anche questo con il fatto di prendersi cura degli altri? La divisione sessuale del lavoro, altro tema molto interessante. Riconoscere la vulnerabilità dell'essere umano, fondamentalmente, i concetti di ecodipendenza, interdipendenza, come concetti centrali per capire come dipendiamo dalla natura. Il mondo continuerà ad esistere, quelli che smetteranno di esistere siamo noi, se non impariamo a prenderci cura di noi. È il punto fondamentale per potersi prendere cura dell'ambiente e prendersi cura di noi, tra di noi. E che queste attenzioni non ricadano solo sulle donne, ma che possono essere adottate collettivamente. Che il fatto in sé di prendersi cura possa essere politicizzato e democraticizzato e che tutti, tutte e tutti possiamo incaricarci di questo compito. Ecco, il libro si espande verso tutti questi luoghi che sono moltissimi e molti di più. Solo che adesso non possiamo per questioni di tempo approfondirli tutti. Ad alcuni capitoli ha lavorato una sola compagna. Altri sono scritti da due compagne, però il libro lo abbiamo scritto interamente noi, aiutate da compagni di altre aree di lavoro che hanno più esperienza di noi su temi specifici, come per esempio rifiuti zero. È un tema che, anche se noi conosciamo bene, ci sono compagni che si sono specializzati in questa tematica, quindi abbiamo potuto consultarci con loro. Anche questo rende il libro esattamente collettivo, il fatto di aver consultato compagni che sappiamo avere più esperienza di noi, e noi stessi avevamo molto da apportare alle loro esperienze. Tutto ciò che è stato come un andata e ritorno di tematiche ambientali, femministe, di genere, il lavoro orizzontale, collettivo, l'introduzione di conoscenza collaborativa. Tutte queste cose sono state elaborate in questo libro, che sembra piccolino però enorme. Non ha molte pagine, però ha un contenuto molto potente. Tiene un contenido muy potente. Sì, e che bueno, también recoge bueno, toda la experiencia de trabajo del área. E raccoglie anche tutta l'esperienza del lavoro dell'area. È anche un'attività molto interessante che abbiamo proposto durante la pandemia, visto che gli anni passati organizzavamo dei club di lettura in presenza e a causa della pandemia quest'anno non abbiamo potuto farli. Abbiamo organizzato degli incontri virtuali e ad ogni incontro trattavamo una delle aree di laboratorio ecologista. E l'idea era, a ognuno di questi incontri, convocare delle persone, iniziando da alcune di noi, poi a qualcuno delle altre aree del laboratorio ecologista, per esempio ecoeducazione, e poi gente che lavora in differenti spazi, che abbia esperienza sul tema trattato, che sia di un'associazione territoriale o di qualche progetto di investigazione dell'area più accademica, e conversare su questa tematica, cercando di pensare a partire da questa prospettiva ecofemminista. Facendo questo esercizio, stimolando il dibattito, e questa attività ci ha permesso di articolare le diverse visioni, perché tutti venivano da ambiti differenti. E questo per noi, a parte aver trattato una certa quantità di pubblico, ha significato un grande apprendistato, perché si sono incorporate altre varie prospettive. Per dare un esempio dei differenti ambiti. Thank you. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la Señor presidente, señores delegados. Porque me mató tan mal. El agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo, que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé. Como ha dicho Fidel Castro, que no era la única mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. A pesar de ser marxistas leninistas, nosotros queremos construir el socialismo. Cantando al sol como la cigarra. Después de un nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nosotros queremos construir el socialismo. Que vuelve de la guerra. Bueno, entonces, después del libro... Ora, in questo momento, dopo aver scritto il libro, quali sono le principali tematiche, problematiche, nonché lotte delle quali vi state occupando con la vostra organizzazione? L'idea era un po' approfittare di quest'anno pensando nel futuro. Beh, poi è uscito il libro. L'abbiamo presentato alla fine dell'anno scorso per portare questa proposta. Forse articolarla con altri territori, con altri luoghi della città. Noi siamo qui, in un posto centrale, vicino al fiume, nel Parque de España. E forse la cosa migliore è portarlo in altri quartieri, organizzare qualche incontro che sarebbe arricchente anche per noi. Poi alcune delle ragazze hanno l'idea di continuare a lavorare sul tema delle zone umide, che è molto attuale adesso qui a Rosario. In primo luogo per la necessità che abbiamo che venga varata la legge sulle zone umide. Tanto nell'area delle zone umide come in quella dell'ecofemminismo stiamo cercando di lavorare in rete, con le organizzazioni e con altri spazi. C'è uno spazio che si chiama Rio Femminista, che vuole pensare il fiume da una prospettiva femminista. E cerchiamo di continuare su questa linea di lavoro anche quest'anno. Año también. Energía. El año pasado empezamos un proyecto, no, el anterior. Due anni fa abbiamo iniziato un progetto in comune con l'area di energia del laboratorio ecologista, da un punto di vista femminista. Un progetto che ha a che fare con la povertà energetica e su che ruolo hanno, cosa succede con le donne in contesti di povertà energetica. Cosicché l'idea è di continuare su questa linea di lavoro per poter sviluppare progetti che siano replicabili in altre città del paese, per poter migliorare la condizione energetica, l'accesso all'energia in chiave ambientale. Per adesso portiamo avanti sicuramente queste tre linee, poi l'idea è che se sorgesse durante l'anno la possibilità di lavorare, abbiamo pensato anche alla possibilità di lavorare con donne che portano avanti orti comunitari. Vedere se si può collaborare con progetti di questo tipo, mettendole in contatto con mense popolari, cosicché possano conoscersi persone che stanno portando avanti lavori, che possono avere una connessione e possono potenziarsi a partire da questo luogo, cominciando a mettere in contatto donne che hanno un orto e che producono alimenti sani, usando l'idroecologia con persone che stanno facendo un lavoro comunitario nei quartieri e che si stanno impegnando perché non manchi il cibo quotidiano in quei quartieri che ne hanno bisogno. Anche questa idea è presente. Así que esa idea también estaba dando vuelta. Sí, en general es seguir fortaleciendo esta idea que venimos haciendo, sobre todo hace 2 años más o menos con sí. estos encuentros y todo. Sí, en general vogliamo rafforzare questa idea che viene da più o meno 2 anni fa, con gli incontri, eccetera, di cercare di collaborare con le altre aree di lavoro. Perché, come diciamo sempre, la nostra tematica è qualcosa di trasversale, è una visione, una prospettiva più che una tematica specifica di contenuto, come è il caso delle altre aree di lavoro. Quindi siamo molto coscienti del fatto che il nostro compito all'interno del laboratorio è questo, rendere trasversali le tematiche. E poi, chiaro, quando nascono questi progetti che, oltre a metterci in contatto con compagni delle altre aree, ci permettono di lavorare con altre realtà, che siano organizzazioni o gente di altri territori, funzionano anche per noi in un modo integrato, perché si lavora in maniera molto positiva. La nostra idea, in sostanza, è questa, continuare articolandoci, perché siamo convinte che sole non andiamo da nessuna parte. Importante è l'organizzazione collettiva. Il femminismo, i femminismi, ci hanno insegnato tanto la importanza di lavorare collettivamente. Sì, tanto che anche il femminismo, i femminismi, nos han enseñado tanto, no? La importanza di lavorare collettivamente. Sì. Sì, articolati, perché ci sono molte persone che stanno facendo cose spettacolari e che però magari non si conoscono con altri, che potrebbero potenziare il lavoro e far sì che si possa replicare ad un'altra scala. Quindi l'idea è continuare articolandoci sia con altri spazi fuori dal laboratorio, sia con le compagne del laboratorio ecologista che lavorano da tanto su alcuni temi. Insomma, ci sarà molto lavoro quest'anno perché c'è molto movimento con tutto il tema della legge sulle zone umide, la problematica dell'estrattivismo, come l'attività mineraria, il tema dell'acqua in Argentina. Tutto ciò è molto attuale. Qui a fine anno abbiamo organizzato un'assemblea sul tema della legge sulle zone umide, che alla fine è in un processo parlamentare. Sì, sarà un anno pieno. Sì, va a star movido este año. Va a haber mucha movilización. Hubo algunas conquistas. Sì. Sì, ci sono state alcune conquiste in questi anni, però c'è sempre la sensazione che sia di più ciò che manca da conquistare. Abbiamo ottenuto una legge sull'educazione ambientale, varata in piena pandemia. La legge sull'uso del fuoco anche. Ecco, alcune conquiste molto importanti, come la legge sulle zone umide. Sì. Bene, l'intervista sta giungendo al termine, ma abbiamo ancora qualche minuto e per questo vorrei chiedervi se avete qualcos'altro che vorreste aggiungere prima di salutarci. Creo que lo más importante, bueno, igual ya hablamos, esto de la importancia de organizarse, ¿no? De participar en... Credo che la cosa più importante, l'abbiamo già detto, è la capacità di organizzarci, di partecipare nel movimento che ci convoca. Noi ci sentiamo chiamate da questo. Bisogna ricordare come conquiste, come la legge sull'aborto, siano arrivate grazie all'immenso lavoro di organizzazioni femministe e altri gruppi. E quando uno vede che i risultati si cristallizzano a seguito di una lotta, in questo caso in una legge, alla quale manca molta sostanza perché ci sono un sacco di ostacoli, però c'è. Quindi sì, l'importanza di organizzarsi e di partecipare. Sì. Di partecipare. Noi cerchiamo sempre di convocarci in questi luoghi, di dire, bene, questa è la nostra proposta di ecofemminismo. Ne esistono altre. È importante riunirsi con altre persone che vogliono un cambiamento nello stesso senso. Bisogna unire le lotte perché siano più potenti e si possano raggiungere gli obiettivi. E bisogna partecipare. Non importa quanto piccoli si è, bisogna riunirsi, conoscere altre persone del posto dove uno vive e cercare di vedere come migliorare sensibilmente la condizione di vita dell'ambiente, a partire dalla questione dell'eguaglianza. E l'importanza di integrare le lotte anche, non pensare alla lotta per l'ambiente come un qualcosa di completamente isolato, da una prospettiva completamente conservazionista, ma al contrario, pensare alla lotta per l'ambiente come lotta socioambientale per cambiare meglio le condizioni di vita della gran maggioranza. Perché senza giustizia sociale non esiste giustizia ambientale e viceversa. Sono entrambe necessarie ed è importante continuarle entrambe e ovviamente la prospettiva di genere dei femminismi è fondamentale. eso. Y bueno, que nuestra propuesta ecofeminista no es la única que hay. Sí, es fundamental, ed è tutto un apprendistato. Questo, e poi, che la nostra proposta ecofemminista non è l'unica esistente, che ci sono un sacco di proposte. L'ecofemminismo è molto ricco in America Latina. Forse non c'è una produzione teorica, però ci sono molti esempi di pratica dell'ecofemminismo, con l'intenzione di mettere al centro la cura degli altri. In qualche modo la conoscenza, la postura che noi cerchiamo è una conoscenza situata, cioè ha a che fare con, in questo caso, con la storia di vita e la biografia delle persone che compongono in questo momento l'area di ecofemminismo. La nostra proposta è intimamente attraversata da tutto ciò, e dal contesto dell'ambientalismo e del femminismo dell'Argentina, che è un campo spettacolare. Quindi organizzatevi e lottate, è il messaggio finale. Organizzatevi con qualcuno del quartiere, unisciti con qualcuno per fare qualcosa. È una cosa che aumenta, che moltiplica la potenza della lotta. La fuerza d'Argentina sta camminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Bene, ritorniamo in studio. Siete sempre all'ascolto di Spazio Estate Viaggi su Radio Onda d'Urto. Il pezzo che ascoltate di sottofondo è Argentina di Trueno, dall'album Bien o Mal, che è uscito lo scorso maggio. Durante l'intervista invece avete ascoltato il pezzo Poder Popular dei Sudor Marica, letteralmente il sudore gay, gruppo di cumbia argentina dissidente e femminista queer. In seguito un remix firmato Don Pierce sul pezzo di Mercedes Sosa con la chitarra. La voce che è stata inserita nel pezzo era quella del Che nel suo famoso discorso alle Nazioni Unite del 1964. Ernesto Che Guevara infatti era nato proprio a Rosario nel 1928. Aveva poi viaggiato per tutto il centro e Sud America per promuovere la rivoluzione marxista-leninista e l'internazionalismo. A Rosario, dal quale avete ascoltato parte del reportage del viaggio in bici, esiste una piazza con un parco dedicata al Che. Trovate le foto su Facebook e Instagram donpears.it. donpears.it. De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños. Invece, sempre tornando all'intervista che avete appena ascoltato, vi ricordiamo che potete scaricare gratuitamente e leggere il libro in spagnolo sul sito del Tagger Ecologista, taggerecologista.org.ar. Il libro si intitola Cocinando el ecofeminismo, ingredientes para abortar a una transición socioecológica. Ne approfittiamo per ringraziare Leonora e Fernanda per averci prestato le voci in italiano di Magali Riva e Barbara Basserini dell'area ecofemminista del Laboratorio Ecologista della città di Rosario. Ancora qualche istante di musica, poi la rubrica di Mirko, dagli Appennini alle Ande. se conectan, indio que no se salta, la misión me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta, entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Roberto Arlt, uno dei fondatori della moderna letteratura argentina. Roberto Arlt nasce il 26 aprile 1900 a Buenos Aires, nel quartiere Flores, figlio dell'immigrato tedesco Karl Arlt e di Ekaterin Jobstra Bitzer, di Trieste, una famiglia dai mezzi precari. È un bambino fantasioso che sogna di essere un pirata e un inventore e che diventa presto un fervente lettore. I suoi autori preferiti sono Baudelaire, Dostoevsky, Pio Baroja e tutti gli scrittori di romanzi d'avventura nello stile di Rocambole. Abbandona la scuola dopo la quinta elementare e nel 1916 lascia la casa paterna a causa dei litigi con il padre, per poi svolgere diversi mestieri: commesso di libreria, apprendista meccanico, lattoniere, agente di cambio, eccetera. Nel 1918 pubblica il suo primo racconto, Geova. Nel 1920 appare il suo saggio Las Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires e il giovane scrittore si trasferisce a Córdoba nel 1921 per svolgere il servizio militare. A Córdoba conosce Carmen Antinucci, che sposa l'anno successivo. Sempre a Córdoba nasce la sua unica figlia, Mirta. Nel 1918 aveva iniziato a scrivere El juguete rabbioso, Il giocattolo rabbioso, il suo primo romanzo, che termina e pubblica nel 26, sotto gli auspici del poeta e romanziere Ricardo Guiraldes. In esso ritrae la vita di un adolescente, dai 14 ai 17 anni, le cui esperienze lo portano al fallimento invece che all'integrazione sociale, come avveniva invece, di solito, nel romanzo tradizionale di apprendistato. Quello che voglio è essere ammirato dagli altri, lodato dagli altri. Ma questa vita mediocre, essere dimenticato quando morirò è davvero orribile. Comunque, un giorno morirò e i treni continueranno a circolare e la gente andrà a teatro come sempre e io sarò morto, ben morto, morto per il resto della mia vita. Da Il giocattolo rabbioso. Sempre nel 1926 inizia a collaborare con la rivista umoristica Don Goyo, il cui direttore è l'amico Corrado Naleroxlo. Nel 1927 comincia a lavorare per Critica, un giornale di massa diretto da Natalio Bottana. Arlt era responsabile della rubrica di Cronaca Nera, o rubrica macabra e raccapricciante, come la chiamava lo stesso autore. L'anno successivo, nel maggio 1928, inizia a collaborare con il quotidiano El Mundo, di proprietà di Alberto Aynes, dove lavora fino alla morte e dove appaiono diversi suoi racconti e, soprattutto, le sue quotidiane Aguafuertes. Con queste colonne giornalistiche, Arlt riprende l'articolo o il quadro di costume, che aveva una lunga traiettoria nel giornalismo argentino, e aggiunge il contributo originale della sua scrittura. L'intento principale delle Aguafuertes Porteñas è quello di analizzare e commentare i cambiamenti che Buenos Aires sta vivendo. Una caratteristica di questi articoli è che mettono costantemente in discussione l'idea di progresso con una componente esistenzialista. Ad esempio, in una di queste aguafuertes, Arndt si occupa della generalizzazione della luce elettrica in città e dubita della sua utilità in quanto non aiuta direttamente la comprensione della stessa. Altri temi affrontati sono la critica sociale, la lingua e persino la difficoltà nella scrittura. Per un cieco, di quei ciechi che hanno le orecchie e gli occhi ben aperti inutilmente, non c'è nulla da vedere a Buenos Aires, ma tuttavia, che magnifiche, quanto ricche di novità sono le strade della città per un sognatore ironico e un po' sveglio. Quanti drammi nascosti nelle sinistre case delle circoscrizioni, quante storie crudeli nei volti di certe donne che passano, quante canagliate in altre facce, perché ci sono volti che sono come la mappa dell'inferno umano, occhi che paiono pozzi, sguardi che fanno pensare alle piogge di fuoco biblico, stupidi che sono un poema di imbecillità, mascalzoni che meriterebbero una statua per la loro arte di arrangiarsi, rapinatori che meditano i loro imbrogli dietro il vetro sporco, sempre sporco, di una latteria. Il profeta, di fronte a questo spettacolo, si indigna. Il sociologo costruisce teorie indigeste. Il mammalucco non vede niente e il vagabondo si rallegra. Intendiamoci, si rallegra davanti alla diversità dei tipi umani. Su ognuno si può costruire un mondo, quelli che recano scritto in fronte ciò che pensano, come quelli che sono più stretti dei sanpietrini, mostrano il loro piccolo segreto, il segreto che li muove attraverso la vita come fantocci. Da Aguafuertes Porteñas. Nel 1929 pubblica il suo secondo romanzo, considerato il più importante, I Sette Pazzi, e due anni dopo il seguito, I Lanciafiamme. La trama di entrambi i romanzi è semplice. L'esattore di una società di zucchero, Remo Erdosain, viene accusato di truffa. Per restituire il denaro rubato si rivolge al farmacista pazzo Ergueta e al pappone Hafner, soprannominato Ruffiano Melanconico, e si unisce alla società segreta dell'astrologo Alberto Lessing, che progetta di fondare una nuova società basata sulla sottomissione della maggioranza. Erdosain sarà incaricato di distruggere la vecchia società con gas letali e il protettore Hafner di finanziare la nuova sfruttando i bordelli. Erdosain, sconvolto e abbandonato dalla moglie Elsa, si trasferisce in una sporca pensione, dove inizia una relazione con la figlia della padrona di casa, la Bizka. Il romanzo si conclude con la fuga dell'astrologo con la moglie del folle Ergueta, la prostituta Ippolita, l'incendio della villa dove si stava tramando la rivoluzione, l'assassinio della Bizka da parte di Erdosain e il successivo suicidio di quest'ultimo. Come hanno dimostrato i critici, il romanzo contiene ingredienti della situazione sociopolitica argentina e internazionale, fascismi e comunismi, aspirazioni rivoluzionarie, potere capitalista, minaccia di dittature militari, Ku Klux Klan, angoscia tra le due guerre. Tuttavia, nonostante la trama ricca di azione, l'autore era interessato soprattutto alla vita interiore dislocata, intensa, angosciosa dei suoi personaggi. E, ad una lettura attenta, si scopre un tema esistenzialista. Qual è il senso della vita? L'amore e la comunicazione sono possibili? L'uomo non è condannato eternamente al fallimento? Erdosain è l'uomo che soffre, sognando, con il corpo immerso nel fango fino alle ascelle. Il critico Oscar Masotto vede personaggi di Arndt come fetenti, che testimoniano di una società putrefatta. Pensò alla donna addormentata, socchiuse gli occhi e poggiando la nuca al muro si abbandonò al suo dolore con grande sconforto. Non soffriva per se stesso, per l'uomo iscritto all'anagrafe con nome e cognome, ma la sua coscienza, prendendo distanza dal corpo, lo guardava come si guarda uno sconosciuto. si disse: «Chi avrà pietà dell'uomo?» E quelle parole, messe insieme con grande fatica, lo turbavano e lo riempivano di dolorosa tenerezza per invisibili fratelli umani. Cadere, cadere sempre più in basso. Eppure altri uomini sono felici e trovano l'amore, anche se, per la verità, tutti soffrono, solo che alcuni se ne accorgono e altri no, e molti attribuiscono le disgrazie ai beni che non possiedono. Ma che sogno stupido aveva fatto! Eppure la faccia di lei era bella, soprattutto quando aveva parlato del principe avventuriero. Ah, poter dormire nel fondo del mare, in una stanza di piombo, con vetri spessi, dormire anni e anni, mentre intorno si accumula la sabbia. Ha ragione l'astrologo, verrà un giorno in cui la gente farà la rivoluzione, perché ha bisogno di un Dio. Gli uomini scenderanno in sciopero, fino a quando Dio non si rivelerà. Da I Sette Pazzi. Nel maggio del 1930, lo scrittore si reca in Uruguay e in Brasile, da dove invia le Aguafuertes Uruguayas, raccolte in volume nel 1996. E nel 1932 viene pubblicato il suo ultimo romanzo, El amor brujo, l'amore stregone, un atto di accusa contro il matrimonio borghese e la sua falsa morale e i suoi interessi materiali. Da quel momento in poi Aard si dedica prevalentemente al teatro. Nel 1932 l'amico Leonidas Barletta presenta al Teatro del Pueblo la prima di 300 milioni, opera a cui seguono altre come Prueba de Amor, Saverio el Cruel, El Fabricante de Fantasmas, La Isla Desierta, Africa, La Fiesta del Hierro e El Deserto entra en la Ciudad. Quest'ultima mai rappresentata a causa dell'improvvisa morte del suo autore. Durante tutti questi anni, Aard continua a produrre Aguafuertes per il quotidiano El Mundo, normalmente pubblicate con il titolo Aguafuertes Porteñas, ma a seconda del soggetto o dello spazio potevano chiamarsi Aguafuertes Teatrales, Aguafuertes Fluviales, Aguafuertes Patagónicas, El Infierno Santiagueño, Hospitales en la Miseria. Nelle note intitolate La Ciudad se queja o Buenos Aires se queja, il giornalista si scaglia contro alcune istituzioni municipali e lo stato urbano della capitale. Si è già fatto riferimento ad alcuni viaggi dell'autore in Uruguay e in Brasile, da dove ha inviato le sue Aguafuertes Uruguayas. Il viaggio più lontano lo porta in Spagna. L'8 aprile del 1934 tocca il suolo spagnolo, nelle isole Canarie, e dal 19 aprile viaggia per la penisola, Andalusia, Galicia, Asturie, Paesi Baschi, Madrid e Barcellona. Da ognuna di queste regioni invia le sue Aguafuertes Españolas. Aard muore improvvisamente il 26 luglio del 1942, senza conoscere il figlio Roberto, nato pochi mesi dopo. Oggi, in Argentina, nessuno mette in dubbio l'importanza dell'opera di Aard nel canone nazionale, che viene spesso paragonata e contrapposta a quella di Jorge Luis Borges, lo scrittore marginale, anarco-rivoluzionario, semi-analfabeta informale, contrapposto al borghese integrato, stilistico e culturalmente raffinato. Tuttavia, non fu così fin dall'inizio. Praticamente, fino alla metà degli anni 50, nonostante un sentito omaggio ricevuto dai suoi coetanei nell'agosto del 42, la critica non si occupò dei suoi testi. Infine, quali sono i dubbi oggi sull'importanza di Roberto Aard per la letteratura argentina, latinoamericana e internazionale? La sua popolarità si riflette nelle numerose traduzioni in diverse lingue e nel fatto che diversi dei suoi testi siano stati trasformati in film. È il caso di Noche Terrible, una coproduzione argentino-brasiliana, dei Sette Pazzi, filmata dal noto regista Torre Nilsson, Giocattolo Rabbioso, Paolo Antonio, e una versione libera di Saverio il Cruel, con la regia di Robert Willicher. Art è uno scrittore destinato a un vasto pubblico di lettori, compresi gli studenti universitari. In Spagna esistono edizioni critiche di El juguete rabioso, Il giocattolo rabbioso, e Lo siete locos, I siete pazzi, pubblicate da Cattedra. Ma anche agli scrittori. Ha lasciato la sua impronta nei romanzi di Juan Carlos Onetti, che ha scritto un prologo alla traduzione italiana dei Sette Pazzi. Julio Cortázar lo ha apprezzato e ha prefato la sua opera completa presso la casa editrice L'Olé e lo cita in diversi suoi racconti, tra cui Rayuel e Il gioco del mondo. Ernesto Sabato si considera in parte il successore di Art. Ci sono elementi tematici e formali nell'opera di Manuel Puig che fanno pensare al nostro autore, ma colui che più si è dedicato allo studio della sua narrazione, inserendolo come personaggio di fantasia ed elemento di discussione letteraria nella propria opera, è senz'altro Riccardo Piglia. Alcune importanti opere di Roberto Art tradotte all'italiano sono Il giocattolo rabbioso, edito da Teoria nel 2017. I sette pazzi, edito da Sur nel 2012. I lanciafiamme, edito da Sur nel 2015. Le acque forti di Buenos Aires, edito da Del Vecchio Editore nel 2014. Cileno affisso sul muro promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina che noia mortale, sono più di tre anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza. Eccoci tornati in studio, Spazio Estate volge al termine. Mirko tornerà la settimana prossima con la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sull'America Latina, all'interno di Spazio Estate. Per questa seconda puntata volevamo salutare Orlando e tutte le voci che avete sentito a inizio della trasmissione. Radio, Radio Onda d'Urto. Spazio Estate. Se volete interagire con Spazio Estate potete mandare un vocale o scriverci sulle pagine Facebook e Instagram donpears.it. donpears.it. Avete ascoltato l'intervista con Magali Riva e Barbara Basserini che ci hanno presentato il libro Cosinando e l'ecofemminismo, ingrediente spara a portare a una transizione socio-ecologica. Un saluto e un abbraccio a loro dunque da Brescia a Rosario. Un ringraziamento speciale anche ad Eleonora e Fernanda che ci hanno prestato le loro voci per l'italiano nell'intervista. Io sono Giacomo e vi ho presentato Il viaggio in bicicletta. Un saluto a tutti e a risentirci alla prossima puntata tra una settimana sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.